Papasoni. Ci siamo? Ci siamo in su 10? Chi è? Chi è? Chi è? E chi non è? Salve Giulio mio, ho acceso poc'anzi e vedo che non c'era nessuno. Porto a chiamare, fare una battuta. Ho detto, vabbè, Papasoni, non c'era un'anima. C'è qualcuno su 23, io ho fatto la spesuccia adesso, edicola, farmacia, spesa, adesso sto scaldando la pappa, mi ero riproposto di mangiare prima ma hai sfumato tutto. Buona serata Giulio. Ciao Marco, io stavo guardando la partita, adesso vediamo se c'è qualcuno, ed ecco che sei a passo tu. Eia. Ho acceso anche il ricevitore, ma sento vari segnali in digitale. Sulle bande amatoriali, siccome stanno modulando quasi sempre in digitale, non li sento più in chiaro, salvo rare volte. Anzi, li sento di più sul 20, quando provano parecchi CB vintage che altro. E quindi, cioè, chi si illude magari di comprare uno scanner per ascoltare gli amatori ormai, a meno che non spenda 1300 euro per quello bello, che riceve tutti i modi digitali, ma sono 1300 euro, cioè sono 2 milioni e 600 mila lire, una follia. A me già non mi convince di sicuro, per cui non me la frega niente di ascoltarli, se mi sento così, in analogico va bene, se no pazienza, non mi mancano. Eia. Sì, 430-100 è un ponte, 100 segnale digitale, 432-525 lo stesso 100 segnale digitale, sai quel classico quel suono là, no? Qua sono pacchetti dattili, va bene, detto ciò Giulio mi c'ho la pentola che è molto calda, da, adesso in piatto e poi se da qui a tre quarti d'ora entra qualcuno, bene, se no dai, pazienza. Ok, vabbè, allora continuo a guardare la partita, io là. Vai a prendere, vai Marco, che è più importante, io continuo a guardare la partita. Dai a Giulio, dai, ci sentiamo, se non ci sentiamo oggi ci sentiremo domani, tanto. Ok, dai, buona serata, buon tutto. Ok, ciao Marco. A domani eventualmente. Tanto ormai già anche tardi. Che sono? 7:10, così. Tutto la serie, che sono all'ascolto, non è tratto un cane. Alle 7:15 vi presentate, buonasera. Ciao qua. Sto guardando il Parma Genoa. Stiamo guardando, per cui. Marco adesso deve pausare, cosa mi dici? Partita poco interessante, sempre 0-0 solo. Ehi, gli ho dato, ciao Marco, gli ho dato uno sguardo anch'io, po' cazzo, ma non gli ho voglia di stare lì a guardare queste partite così monotone che non servono a niente. Allora, adesso tra un po' mi preparo, vado a portare a Ciccio Bello a passeggio e poi ceniamo, tanto sono già le 7:15 quasi. Il sabato è finito. Sì. Diciamo di sì, dai. Vabbè, comunque. In compenso abbiamo fatto scaldare la radio ieri per 3 ore, anzi 3 ore e 3 quarti, per cui già oggi l'abbiamo fatta riposare un po', dai. Sì, ma non c'è neanche, sono andato lì stamattina, sono uscito un po' in campagna a fare qualche cosetta, poi sono rientrato là di pranzo per un po' il telefono con un po' di persone, gli amici e niente, poi mi sono rientrato a casa. No, prima di mezzogiorno ero già a casa, sabato fiacco, non aggiungami, adesso domani, tanto ormai è già tardi. Va bene, dai, guardati la partita, io sono ancora 10 minuti in quel Rix e poi vado a portare a Filippo, ok? Va bene, qua, dai, ciao, se vuoi continuiamo, per voi non c'è il sole. stata una partita, già non è che mi interessa più di tanto, una partita di brividi, solo che stavo guardando il gioco del Genoa, visto che noi la dobbiamo controllare, fa un po', per cui, ma comunque. Il ragazzino, c'è poco voti. Forse sì, io non sapevo neanche che c'era questo ragazzino, anche quell'altro che è entrato, ce l'ho detto ieri in Serie A con la Juventus. Sì, questo Ken è interessante. È interessante. Adesso vediamo cosa decide Allegri, se farlo giocare più spesso per fare coppia magari con Dybala e con Ronaldo. Così alterna anche Mandzukic, Bernardeschi non mi è piaciuto niente ieri, molto fiacco. E infatti, no, non è in forma, assolutamente. E pensare che sembrava che potesse essere un grande giocatore, invece queste ultime partite non mi è piaciuto nemmeno a me. E vabbè, quel ragazzino comunque, lo so, l'ho visto ieri, ma che io ce l'avevo visto. Forse scatta certi e si impegna, poi veloce, 19 anni appena, se ne vedi così. Già l'ho visto come scatta e come rulla, ha fatto anche dei due bei gol, uno di scatto, l'altro ha detto un'altra fatta a segnare, invece mi tira con talento di punta, uscì col doppio piede, molto attento, molto interessante, infatti spero che giochi un po' di più per far vedere appunto qualcosa di più veloce, visto che è giovane, capito? Vediamo. Sì, il Genoa è forte fuori casa, forte, ma anche in casa è forte il Genoa, non è una squadretta. Lo so. Infatti Bonucci ieri l'ha anche svelato lì a Kevin. Perché se stava prendendo in giro, ha fatto quella giocata di tacco e stava praticamente umiliando l'avversario. E Bonucci me l'ha detto, ma non sei dei belli, non te ne sei accorto. Ma Bonucci l'ha svelato, perché ha visto che non ce la fanno di questi giochi in Serie A oggi. E se ne gioca mai nella Serie A. E l'ha messo subito in riga Bonucci. Si deve fidare anche all'esperienza di quei giocatori che chiaramente la Juventus, che sono tutti giocatori di alto livello e con un'esperienza oramai maturata negli anni, sono tutti vecchietti, quindi deve anche ascoltare, non si fanno, no? Il cronista, ho sentito che ha detto qualcosa, ma pensavo che era rivolto ad altri episodi, invece era quello sì che ha, quel lancio che gli ha fatto, ma la girata col tacco, la bloccata col tacco, la toppata col tacco, vabbè, ragazzini sono tutte cose di buoni va, però ti ripeto, sta in questo Allegri capire chi può giocare, chi non può giocare e chi merita comunque. Un bel turnover ieri, praticamente non c'era nessuno, un bel turnover, ho visto una bella squadra, sia in attacco che, hai visto la differenza Bonucci-Casares, Spinazzola ha fatto un partitone, ma Casares, ne vuoi andare, lui l'ha mobiliato per cui Pajoia, se no vinceva 4-3. Infatti, sì è vero. La doppietta di che, e poi si è procurato anche il rigore Ken, perché il gol che ha fatto Matuidi, e perché Ken è stato bravo e si è procurato anche il rigore, perché la partita ieri l'ha fatta Ken praticamente. Però dopo l'ha svelato, Bonucci ha detto, no, riguardi il Yogi Dudo, non si prende in giro l'avversario, si gioca a calcio in maniera pulita senza umiliare nessuno, perché stiamo vincendo 4-0, d'accordo, però questi giochi non si fanno, anche se sta vincendo 10-0, ha ragione, no, ha fatto bene a mettere in riga, sai, un ragazzino, con capo di fuma e bambini, non sai com'è la Giulia. Ribadisco che bisogna anche affidarsi a gente esperta, a gente che ti può dare anche consigli in campo, no? Non è detto che devi per forza fare queste cose. Vabbè. Chiellini, Bonucci e Chiellini. Infatti, mo vediamo. Vabbè, dai. Ok. Beh, certo, non è Chiellini che cazzo, è figlio Rubino. E vabbè, lui, cioè, praticamente non può fare centrale agli stessi livelli di Chiellini, no? Assolutamente, no? Ci mancherebbe. Diciamo che lì l'hanno giocato proprio con cuore, non era niente lì, l'Udinese ieri non era niente, basta pensare 70% del possesso palla ha fatto, e cosa vuoi, c'è una differenza enorme di classe, e evidentemente è così. Vabbè, dai, mi è dispiaciuto molto per Mazzagli, poveraccio, ero stato in tempo fortunato, è entrato, queste partite giocate notturna, poi mamma mia, col freddo che c'è in quei posti, sai, a Torino non è come qua, no, i muscoli sono freddi, e lui ha avuto di nuovo questo stiramento, ma te lo immagino. Aveva già avuto qualcosa a Mazzagli, mi pare, no? C'era un sacco di tempo, era, mi pare che erano mai 2 mesi fortunato o anche di più, non riusciva a riprendersi, e adesso c'è di nuovo il posto, 20 minuti ha giocato, 25 minuti, peccato, perché non se lo mette, è un Mazzagli, anche se è anziano, però è una garanzia quando gioca continuamente. Beh, io credo. Capisco questi giochi di fascia, fascia al capitano, dove c'è uscito Barzagli, la fascia toccava a Bonucci, ho capito perché l'ha presa Alessandro, non ne date mai a Bonucci. Ma io sono convinto che Bonucci lui non se l'ha legata a Vito dalla volta scorsa, da quando era successo quel fattaccio, io penso che magari poi gli hanno imposto Gerardo perché ritornasse al Milan, che ritornasse alla Juve dal Milan, e la cosa, capito? E così i tifosi juventini sempre già fatto la maglia con il numero 9 con il nome Icardi dietro, convinto so che Icardi va alla Juve, Icardi alla Juve non va ai dubbi partiti, forse la rispetto. Sta sulle palle a me quel ragazzo, lui è quella baldracca della moglie. Quella baldracca infatti se a lui lo rovina, ma non lo so, dicono stando a quello che si legge poi, dice che Paratici non tiene. Chi? Sia lui che avvalla, io non ne sono molto convinto comunque. La Juve non ci fa niente, la Juve gli attaccanti ce li ha e se li tiene, Icardi vada a giocare da un'altra parte, lui è quella baldracca della moglie, ti ho detto, chissà, fa caricare. Marco, vuoi riprendere? Sto facendo lavorare le mandibole, no, chi era questa della moglie? La moglie baldracca, chi è? Ma un giocatore o un allenatore? No, un giocatore, Icardi, perché? Non è baldracca la moglie, cos'è? È una baldraccona, non sa manco dove porta i piedi, E si mette a parlare di calcio, a fare da procuratore al marito, ma anche non ti ritiri e vai a lavare i piatti. No, pensa, io non so che faccia abbia questo che hai nominato, pensa quanto conosco il caso, non so che faccia abbia lui, non so nemmeno che faccia anche abbia la moglie, comunque dopo me lo guardo, sono curioso. La moglie ce la faccia la baldracca, ti sto dicendo, e lui ce la faccia la guasto, vero Giulio? Allora, diciamo che la moglie è la mamma di lui, dai. Mi sembra che roba di 4-5 anni più grande, intanto no. Poi c'è la sposata che aveva già 3 figli, mi sembra, o Marco. Sì, che ti puoi immaginare, l'ha abituato, prima era con un altro giocatore, era. E poi con quel giocatore, anzi quel calciatore, era un calciatore sedere, l'ha mandato via. E allora se l'ha accaparrata il cambio, se l'ha accaparrata questa randaggia, perché è una randaggia. Eh beh, certo, si accalappiano solo giocatori perché rendono, sono come un conto in banca. Non come, sono un conto in banca nutrito, capito? Perché sennò cosa avrebbe fatto? Comunque molte, adesso non voglio generalizzare, ma certe queste miss di bellezza che fanno i concorsi, queste giovani, il sogno, dice, quali sono i tuoi sogni per il futuro? Fare la velina e sposare un calciatore. Aspetta che riscatto della donna, le femministe si staranno fustigando, autofustigando. Ma ti ho scelto poco fa, dov'è che stavi ascoltando? 4:32:525. È da un po' di giorni che appunto dipende dall'ora. 4:30:100, 4:32:525 sento segnali digitali, sento il traffico, il treno di dati, no? Come lo vuoi definire? È ben poco in chiaro, li sto sentendo, li sento più sul 20, sono proprio nei vintage che in banda amatoriale. Poi tieni conto, il 4:32:525 è un trasponder che arriva da 145-600, quindi noi eravamo 145-600 poco fa con uno di Oschiri, un radioattore di Oschiri, stavamo parlando in digitale, quindi tu ricevevi in UHF, eravamo noi in digitale, sull'R0. Purtroppo con l'avvento del digitale anche gli orecchioni, come li vogliamo chiamare, gli ascoltoni, se no devi spendere 1300 euro per ascoltare cosa poi? No, cioè, ce n'è anche da me, no, che ricevono almeno i tipi di digitale usati dai radioamatori, no? Di Star, quello di Eiesio, non mi ricordo come si chiami, Fusion, DMR, i soliti, no, però non c'è tanto ormai, costano, cioè il costo iniziale dello smartphone non giustifica proprio la finalità, assolutamente. Ma dello smartphone, del ricevitore. Mi conviene, lasciate perdere. Io quando ce l'ho mi faccio solo qualche passaggio così ogni tanto con DMN, ma diversamente è sempre spento, c'è mai nessuno. Non pensate perché non si trasmette in analogico, pensate che siamo in digitale, c'è poca attività perché la gente è impegnata in altre cose, quindi c'è poca attività, però qualche passaggio già si fa anche lì, dai. Io già lo uso qualche volta. Avanti Giulio, dai, un altro passaggio, poi chiudami. Filippo si è già alzato, si è svegliato, sta già arrivando qua. Cosa c'è? Vieni. Vuoi andare? Ok, qua. D'accordo, dai, allora vai, portalo a calciare, così anche lui ne avrà necessità. Ancora 0-0 comunque, Parma Genova. Al 70esimo già, c'è ancora 0-0. Vabbè, dai. Così è Marco. E quella a Regione Claudio, quella lo potrà veramente la moglie di quel giocatore. Capito, comunque molte ragazze carine fanno concorsi di bellezza e il loro scopo non è altro che sposare un giocatore, capito? Velina è giocatore. Invece certe donne hanno più le palle, fanno tutto quello che fanno gli uomini, anche di più, certe sono anche militari. Vabbè. Cambiano gli anni, cambiano le mode, cambiano anche i ruoli, tra un po' ci metteranno sotto, se già in parte non ci hanno messo sotto già le donne. Tu immagini, se fosse stato il contrario Giulio, se fosse stato sempre parte matriarcale, tutta la società occidentale, no? E non solo, tutto il mondo matriarcale. Cioè gli uomini servono per il lavoro e la riproduzione, le donne per il lavoro, ma soprattutto educazione ai figli, capito? Poi non dico che sarebbe stata migliore, ma chi lo sa, meno guerre, non si sa, che le donne quando si vogliono afferrare già sono peggio gli uomini, sono delle belve. Ok, sono, sono tutti i giocatori che hanno turni, sono tante che sanno anche muovere le palle. Solo sai che un paio di giorni fa ho sentito un ex giocatore di calcio, vabbè, che non ha avuto problemi anche con la giustizia, che sta chiedendo addirittura il reddito di cittadinanza, lo sai? Oh, è caduto in miseria proprio. Vabbè, poi ex, quindi non è più nel giro. Troppo capita anche a loro. Come negli Stati Uniti, sai, il football, il rugby, come lo vuoi chiamare, quelli che hanno tutte le protezioni, il casco, anche lì ogni tanto ci sono giri di droga dietro, di doping, allora li cacciano via dalle federazioni e questi poi finiscono lo stesso a dover sopravvivere. Cosa ti volevo dire? Aspetta, stiamo parlando di calciatori, di donne, di uomini, ma mi è sfuggito, dai, già mi vale in mente. Ok. No, ma ce ne sono stati altri casi, i giocatori proprio sono andati in rovina, un po' perché magari erano viziosi, sai, grandi spese, grandi divertimenti, eppure alla fine. Proprio perché c'era ad esempio un famoso giocatore che aveva il Cagliari negli anni 70, 72, in quel periodo lì, che era un certo Nenè, che poi riserva sempre Cagliari, è rimasto a Cagliari, era nero questo Nenè, ed era diventato barbone, era poverissimo, infatti lo aiutava, gli diriva, lo aiutava per sopravvivere, poi è morto, poveraccio. Ah, ecco, mi è venuto in mente, sono andato a comprare dei giornali per mamma, no? La nostra Sardegna, che ancora non l'aveva letto. Ho visto su un giornale di gossip Fabrizio Corona in copertina, no? In un riquadro, tutto sempre seminudo, tutto tatuato, vabbè, non vuol dire niente questo. Dice, aspetta, l'ultima fesseria che si è messa in testa o che ha detto di voler fare, voglio fondare un partito per diventare presidente del Consiglio. Trovato là, ahimè. No, ma sto a fare Berlusconi, gli intrallazzi sporchi che ha fatto, le leggi ad personam. Mettici Corona, presidente del Consiglio, così finiamo proprio. Ma come fai a fare certe affermazioni? Ma per me Corona per me è un delinquente. Delinquente è, delinquente rimane, perché è sempre più disgraziato. Anche l'altro giorno ha fatto vedere un video, ha fatto vedere tutta l'altra cosa, come si chiama? Il cantante, che è quello che ha bisogno dei famosi adesso. Ha fatto dicendo che la moglie lo tradiva. Come si chiama? Quel cantante. Guarda, il visore famoso, non so se l'hai mai visto, se lo stai guardando, c'è quel cantante, 70 anni, 71 anni, con la barba bianca, con i capelli bianchi, Riccardo Fugli, e lui ha pubblicato, o ha fatto pubblicare, questo video che appunto testimoniava che la moglie di questo Riccardo Fugli lo tradiva. Ma cosa ha fatto? Fa schifo, quello gli fa schifo. Lui è un uomo che io l'avrei arrestato e avrei buttato le chiavi in mare. È vero che non ha mai ammazzato nessuno, però è un disgraziato, un delinquente, un verme. Ma per il tradimento? E allora guarda, è tutta una cionfra adesso, poi con i social network non ne parliamo, sono tutte mogli che constano tutto il giorno chattando, Badu, coso, stanno sempre a cercare, se non voglio diventare volgare, alternative, passatempi, chiamiamoli così. È tutto un troiaio, mi Giulio. Purtroppo non è più sacro sposarsi in chiesa, no, fare il giuramento, proprio sono parole nel vento, tanto vale non sposarsi e convivere. Tanto per fare falsi giuramenti allora non, uno si sposa in comune, è finita lì, seppure si vuole sposare in comune, ma all'uomo non conviene, alla donna conviene, dipende da, magari ricca la donna, allora conviene all'uomo. Conosco qualcuno che è lo stesso, era nullatenente, si è beccato una ricca, una ricca, ma era la ricerca, proprio c'aveva la tabella, si tenta con questa, niente, mi ha sbattuto la porta in faccia, l'ha depennata, passiamo alla prossima, questa, le ho dato i fiori, si è girata in ordita, se n'è andata, niente, depennata, passiamo alla prossima, proprio sistematicamente, c'è gente che può sopravvivere solo così, mi... Ma se me l'aveva detto a me, diciamo, adesso non entriamo nel dettaglio, una signora dice, ti dovresti prendere una donna anche più, molto più grande di te, basta che sia ricca, capito? Siccome praticamente mi devo prostituire in cambio di un lascito, di un'eredità, non funziona così, non con me. Questa è gentaglia, lo stesso a favore. In modo particolare con Fabrizio Colonna, io non lo posso vedere perché è un delinquente. Cosa cosa fa? Prende, va, scopre certe cose e poi li mette in piazza oppure te li scatta, come aveva fatto anche a un ex giocatore della Juve, un certo Trezeguet, un francese, 50.000 euro l'aveva chiesto, e lo pubblicava un rapporto di un tradimento, cose del genere. È un verme, è un disgraziato. Poi uno che è stato sposato o che è stato con me, ti puoi immaginare che elemento può essere. Fanno schifo tutti e due. E poi c'è anche questa storia, allora si fanno molta pubblicità, no? Tipo Belen fa un video con un ex ragazzo, con un ragazzo, no? Insomma, in poche parole, molte coppie si fanno il video, hard, no? Poi però puntualmente quando bisticciano, questo video hard dalla controparte viene diffuso, oppure, come penso io, semplicemente questo video non viene diffuso dalla controparte, magari lo diffonde Belen con qualsiasi mezzo, può essere persino cosa può essere mi emule, torrent, quel scambio file. E perché lo fa? Per farsi pubblicità. Per farsi pubblicità, quindi c'è la storiona che avrebbero carpito questo video dal suo computer personale, non ci credo, secondo me è tutta pubblicità. Quando c'è un calo di interesse per un personaggio in particolare, allora bisogna creare il piccolo scandalino per riportarlo sempre in TV, a tutti i programmi, eccetera. E poi scusa, una che va a far vedere, come quella volta della farfallina, che si è visto mezzo inguine e non solo, in TV, no? Vabbè, comunque Belen, una scorticata gliel'avrei data, a lei forse anche alla sorella, a parte che uno può approvare o meno il comportamento. Oh, sì. Ma va bene quella gentaglia, cosa tu credi sia? Quella gentaglia, gente che passa da uno all'altro così, senza pensarci due volte, per carità, fanno schifo. In questo ultimo periodo mi sembra che ne ha passato 7-8 già, è passato. E prima col giocatore, prima con Colonna, poi col giocatore, quando era con Colonna era anche col giocatore, dopo che era col giocatore si era sposato con quest'altro, un po' Mattino, si chiama, De Martino, si chiama, aveva avuto anche figli, eccetera, eccetera, con quello, e nel frattempo metteva le conne con questo giocatore, le metteva. Poi da questo giocatore è passato col motociclista, da quel motociclista è passato un altro ancora, è tornato di nuovo col giocatore, adesso il giocatore è tornato a Del Martino. Se tu stai dicendo nell'ultimo periodo, nell'ultimo anno come minimo ne ha girato una quindicina. Fa schifo ai cani quella di cosa. Vabbè che gli uomini sono cose che hanno sempre fatto, certi uomini non si moglie non moglie, figli non figli, capito? Dove c'era da inseminare, inseminavano a destra a manca. Magari noi maschili, no, io non sono maschilista, se lo fa una donna allora, capito? È un poco di buono, tanti uomini sono dei farfalloni, per non dire puttanieri, ne conosco giusto qualcuno. Ci sentiamo, ascolto fino a lì e chiudo, ciao. Eia, Giulio, buona serata, buona cena, buon tutto e ci sentiamo, ma presumo domani, tanto non in programma di andare da nessuna parte, perché tanto a Sassari può andare solo a Platamona, pigliati gelato, vabbè, dai, buon tutto, a domani, ciao ciao. Ok, ciao ciao.